Buonasera, benvenute e benvenuti. Seconda giornata del Clorofilla Film Festival e di tramonti dell'Uliveto all'interno di Festa Ambiente dal 18 al 22 agosto e grazie a Simonetta Grechi. Abbiamo qui Arianna Gaudio. Buonasera, buonasera Federico, buonasera Simonetta, buonasera a tutti. Non mi ricordo, ma eri stata qui anche in veste di attrice? Non mi ricordo questa cosa. Sì, sono stata qui in veste di attrice, era più una sottoveste, mi ricordo, però sì. Grazie a Simone Giusti perché presentavamo il suo libro anni fa, Cambio Verso, e c'era anche Filippo Gatti. Avevo proprio una sottoveste, infatti, ero proprio costumata. Sì. La scoria infinita, luoghi comuni. È vero, c'è scritto così Esattamente. dimmi tutto, ecco. Tanto, per chi non lo conoscesse, descriviamo un po' l'oggetto, che prima è stato digitale e poi è diventato libro cartaceo. Sì, allora, questo libro, questo oggetto che a me piace tanto, però sono di parte, è iniziato con la raccolta su un social famoso, che comincia con F e finisce con Facebook, di fatti reali che mi accadevano, nella vita. Nel senso, io sono una che prende molti treni, molti autobus, che vive come tutti noi la città e quindi i luoghi della città, dalla posta al supermercato, adesso per essere breve. Ho sempre questa attenzione verso i dialoghi, verso le scenette, verso gli sketch, perché faccio l'attrice e probabilmente sono più abituata e ho cominciato a scriverli. Ho cominciato a ricordarli, a scriverli e prima li tenevo per me e poi ho cominciato a pubblicarli su questo social. Mano a mano che li pubblicavo mi arrivavano questi compiacimenti, questi like, e poi mi hanno cominciato a dire, a suggerire, a consigliare di scriverne, di raccoglierli e di farne un libro. E così è stato, nel senso che io non l'ho fatto, però qualcun altro per me ha preso la palla al balzo, Filippo Gatti, lì, e mi ha fatto da manager. È andato dal niente poco di meno che Marcello Baraghini, di Stampa Alternativa a Pitigliano, e ha In presentato genere c'è qui tutti gli tutti anni. gli anni. Ma quest'anno ha fatto il suo festival in Esatto, in questi contemporanea. giorni sta facendo il festival a Pitigliano. Però magari potevamo portare una foto, forse. Una La diapositiva. diapositiva, sì. Così, per farla breve, abbiamo creato questo libro. Prima lo abbiamo creato online, quindi è stato scaricato parecchie volte e letto. E poi è nato il vero cartaceo che ho qua. Ce l'ho solo io, nel senso non è che lo do a voi. È lì. Sono stata breve perché io sono la regina dell'Anacoluto, come ti ho detto anche già una volta. Quindi mi ripeto, apro parentesi, non le chiudo mai. Sono molto più sintetica quando scrivo. Una delle cose sorprendenti è questa tua attenzione Sì. e anche una grande memoria, questo ti viene dal fatto che sei attrice, però comunque sono due doti non secondarie che poi fanno anche un po' la differenza, perché non è normale, non è abituale che uno va in giro e fotografa le situazioni anche divertenti che incontra, spesso sono un sottofondo. Magari ci fa caso, ma non troppo. Invece tu sei stata proprio, per così dire, scientifica. Sì, diciamo chirurgica, è vero. Ma sì, l'attenzione che ho fin da piccola, insomma, mi piace sentire le cose degli altri, un po' stare nel mezzo, sentire, però ne ho fatto sì, ne ho fatto una virtù in questo senso. Però voglio dire che capita a tutti alla fine. Dopo un po' che qualcuno leggeva questo libro mi diceva: ma lo sai che adesso ti posso raccontare? Mi chiamava, mi telefonava dicendo: ma guarda, questa è una scoria infinita, te lo volevo dire, ce n'è pure una qui, ecco il libro. Ti volevo dire che oggi in questa città mi è successa una cosa tipo la scoria infinita. Oggi ero sul treno e ne ho sentite tre. E oggi ero lì là e al salumiere e ne ho sentita un'altra, perché poi ci fai caso. Io ho cominciato a levarmi gli auricolari in treno quando ho cominciato a vedere queste scene, ho detto ma è molto più divertente vedere queste cose e sono tutte vere. Le ho riportate praticamente pari pari, non ho tralasciato nulla e magari ho aggiunto qualcosa un po' di teatrale, ma semplicemente per far funzionare lo sketch, ma in realtà poi si raccontavano da sole ed erano molto divertenti. Ne capitano centinaia, ma io ho raccolto le più significative per me. Ne ho raccolte tantissime, però questa è una sintesi di 60 racconti. No, continuo a raccontarle su Facebook perché mica finiscono, le scorie sono appunto Certo. infinite ed ecco qui. Il palcoscenico principale è Roma. ma non solo. In questi ultimi tempi, questi ultimi anni, l'impressione, vedendo, ascoltando, è che sia un po' una città che galleggia, un po' una palude, anche incattivita. Tu invece che impressione ne hai fatto poi guardando a tutte queste scene? È una bella domanda questa. Rispondo subito alla prima. La principale location è Roma, però anche fuori, perché ho preso molti treni. Sì. Però sì, ci sono delle cose che raccontano proprio Roma, che sono state vissute a Roma, che per me sì, è una città che galleggia, è una città molto faticosa, però ormai è tutto molto faticoso, diciamo, quindi Roma è quella più faticosa rispetto alla fatica che è aumentata in questi ultimi anni. Per me è sempre molto divertente, ci trovo sempre della grande ironia, però ti devo confessare che non è che ho aggiunto chissà quanta ironia in queste storie, sono storie vere, proprio di Roma, di persone che si incontrano, soprattutto sull'autobus, sono molto divertenti. Come dico, basta saperle ascoltare, perché alcune sono anche molto, molto amare. Ci sta, succede, e mica si può sempre ridere, insomma. Però sì, voglio ricordare Roma e la Roma con molta ironia, che galleggia però sempre in alto. Autobus, treni, stavo pensando, chiaramente ti sposti molto. Sì. E queste però non sono solo scenette a cui partecipi da osservatrice, ti capita anche di fare incontri? Cioè di conoscere persone, al di là del fatto che osservi. Sì. Ah sì, dopo. No, veramente no. In questo senso io prendo, riporto chirurgicamente e me ne vado. Non mi soffermo. Non c'è quindi mai occasione di incontri, no, di conoscenza? No, magari c'è un commento, se facciamo gruppo, magari rispetto a una cosa che accade a una persona in modo specifico, però poi me ne vado, me ne voglio andare via, voglio correre a scrivere, perché sennò poi faccio troppa confusione. Mi piace ricordarli così, mentre me ne vado, mentre mi butto da un treno in corsa o esco da un bar. Però lo sai che adesso mi hai suggerito una buona cosa? Forse dovrò anche farlo, magari mi dovrei fermare. Perché penso le persone più interessanti meritano una conoscenza. Lo so, sì. Però anche questa fretta, questo sketch volante è anche molto interessante, però lo farò. Lo farò, la scoria è finita due con stretta di mano, fotografia, potrebbe essere l'upgrade. Uno dei miei protagonisti. Sì, esatto. Sì, Maurizio. Ci dai qualche assaggio? Eh sì, dai, facciamo così. Negozio di pizza da asporto in fila. Ragazzo 1. Hai visto? È morta cosa? Ragazzo 2. Chi? Ragazzo 1, cosa? La cantante di quel gruppo straniero, Ragazzo 2, non ho capito. Ragazzo 1, e dai, cosa? Che cantava quel pezzo famosissimo, che aveva una voce particolare. Oh, 43 anni e 3 figli, poveraccia. Ragazzo 2, anche se non ho ancora capito chi è. Ragazzo 1, uffa, dai, come si chiama? Cosa lì? Io per i nomi... Cosa? Ragazzo 2, vabbè, com'è successo? Ragazzo 1 dice improvvisamente, ma quelle sono state le droghe sicuro, La cantante dei, uffa, dai che non mi viene. E le droghe sono state più nel caso tuo, mi pare. Una voce dalla cucina, oh, davvero, Patate e mozzarella la scaldo? In memoria di cosa, questa si intitolava. Grazie. Da Zara, figlia, mamma, ma guarda che bello questo, che dici, me lo provo? Madre, sta male al manichino, figuriamoci a te. Cornelia, la madre dei Gracchi. Esterno bar del centro di Roma, bellissima ragazza al telefono. Ti fermo subito, Alex, io sono felice per te e non ho nessun rancore. No, sto benissimo. No, non c'ho al momento una storia e quindi che ce la devo avere per forza? Ecco, appunto, per ora sto bene così. Esco tutte le sere e alzo caciara con le amiche mie. Ma poi a te che te ne frega? C'hai problemi? Ma hai lasciato te... No? No, che non rosico. Ma perché ti sei fissato che rosico? Sei cosa? Preoccupato per me. Alex, stai tranquillo, io ho una vita bellissima. Io? Sì, io. Parlo di me, di chi devo parlare? De te, adesso con qua a zoccola, come vuoi sta? Orgoglio e pregiudizio. Questa qui è, mi lascia ancora perplessa. Questa a Trastevere. Fermata di autobus al gusto vampata. Uomo col borsello. Senta, è passato il 44? Ariadne, che sono io. No, per ora solo il 75. Uomo col borsello. E di quello non mi frega un cazzo. Ariadne, prego? Lo odio quel bus. Di quando passa e dove va non mi frega un cazzo, va bene? Ci hanno scippato mia madre qualche mese fa lì dentro. Da quando è successo guardo male tutti, compresi gli autisti che lo portano. Mi dispiace, ma che c'entrano gli autisti però? Uomo col borsello, con sguardo di rimprovero. Dovrebbero non aprire le porte a certe persone. Non credo abbiano scelta, sa? Ma non diciamo stupidaggini, c'è sempre una scelta! E vabbè, allora non le diciamo. Lei crede in Hammurabi? L'autobus si avvicina. È l'unico in cui riporre fiducia, l'unico in grado di fare un governo. Il 75 si ferma, apre le porte. Lui sale. Ci pensi e mi faccia sapere. Autista, dall'interno. Arriecchilo questo, e tre. Babilonia, Trastevere, 3-0. E a proposito di notturni o di autobus, notturno numero 10, viaggiatore. Scusi, che notturno è questo, conducente? È il notturno de Chopin. Non parlare al conducente. Metro B. Madre con bambina in passeggino. Stasera le faccio la pasta in bianco che il riso ce lo abbiamo fin sopra i capelli. Madre della madre. Ma col riso non sbagli però, Robè, perché se la pasta le rimane pesante poi ci risiamo con la diarrea. Bambina in passeggino. Diarrea! Madre con bambina in passeggino. Ma no, mamma, sono passati 6 giorni. Le feci sono dure ormai e poi il riso non lo vuole proprio più. Comunque, parla piano, non vedi che ripete tutto. Madre della madre alla bambina. Pappa galletta di nonna lei, eh? Eh? È bella di nonna, cucù, cucù. Chi è l'amore di nonna? Il cucù sette. Madre della madre alla figlia. E che palpebre, Roberta mia. Ho detto diarrea, mica merda. 2 gemelli, 3 sedili più in là. Merda, merda, merda, merda, merda! Madre della madre, olio e parmigiano gliela fai la pasta. Diarrea chi legge? Stazione Termini, una bambina. Che cos'è quella statua d'oro lassù, mamma? Una madre. Dove, a mamma? Una bambina. Vedi lì in alto quella col braccio sospeso? Una madre. Ah, e quella è la Madonna di Termini. Una bambina. Che bella che è. Una vecchia. Guardi che quello è Cristo. Una madre. Ah, è Cristo. Una vecchia. Eh sì, è quella la Basilica di Via Marsala, il Sacro Cuore di Gesù. Una madre. Ah, oh, da qui pare una donna. Guardi se quelle non sembrano le sise. Le sacre sise di Gesù. Oh, alcune sembrano delle pillole di filosofia, sono anche, immagino, fonte di insegnamento. Sì, tipo l'ultima, le sacre sise di Gesù. Eh beh sì, la vita in strada è così. Sì. Sono sicuramente pillole di vita, di saggezza. Beh, io ci prendo veramente gusto, mi piace tanto, oramai non esco neanche più. Cioè, nel caso, esco solo per andare a fare la scuola infinita, sì. A raccogliere informazioni. Materiale. Il resto non vedo più nessuno, non ho più amici, niente. Passiamo anche alla scelta editoriale. Eh sì, ma quello sei bravo tu però, perché tu, solo tu puoi parlare di Marcello Baraghini, in un certo modo, e forse anche Filippo Gatti. Beh, al di là del fatto che è stato Filippo... sì, a trovare la connessione con Marcello. Com'è stato con Marcello? Beh, bellissimo, è stato bellissimo. I primi incontri li ha fatti lui per me, è stato meraviglioso, siamo andati a casa sua, insomma, per come è fatto lui, con un bel pranzo, abbiamo chiacchierato. Lui voleva ovviamente sapere, era entusiasta del fatto che queste sono storie vere, come lo chiama lui, un vox populi proprio, e quindi si è entusiasmato e adesso abbiamo questo bel rapporto, ci scriviamo, ovviamente sabato saremo al suo festival. Si è divertito moltissimo, è venuto a Grosseto alla prima presentazione, è sempre molto propositivo, è una persona meravigliosa, come sappiamo, un combattente, cioè vive con questa volpe che sta fuori dalla sua casa, con cui diciamo, parla, come io d'altronde parlo con il mio cane. Lui ha questa volpe che ha ammaestrato e gli dà da mangiare, ci sono dei video in cui racconta la volpe delle sue giornate, no? È normale che sia, vive in un posto meraviglioso, lì a Pitigliano. È un uomo proprio speciale, è un combattente, però col sorriso sempre. E questa scelta immagino che la stia praticando anche per altri lavori, del digitale gratuito da scaricare, e del cartaceo. Sì. È una scelta che ti ha convinto, ti è piaciuta? Beh sì, alla fine sì, all'inizio ero un po' perplessa, ma poi effettivamente mi sono resa conto che il libro è stato proprio scaricato tantissime volte e letto, quindi non soltanto scaricato ma proprio letto, quindi i feedback sono stati veramente sorprendenti e quindi alla fine sì, come pensiero, come filosofia, come mi è piaciuto molto. Non ero proprio convinta, però questo è piaciuto. D'altronde io lo saprà lui, insomma, come si fa. Se non lo sa lui. E oltre alle presentazioni stai curando anche da te stessa la distribuzione, sì, girando per le librerie, sì, sì. Ecco, com'è questo rapporto con le librerie? Che impressione ti ha fatto? Mi diverto perché comunque come passato anche di libraia mi piace, mi sento sempre a casa. Sono un po' un rappresentante della Folletto, giro questo zaino con i libri dentro e mi presento sfacciatamente in tutte le librerie appena posso, dicendo questo. Quindi non libro. Solo quelle che conosci? No, tutte me le faccio piedi, appunto, metti caso che mi capita una scoria infinita mentre con lo zainetto sto in giro e magari capita, che ne so, un tafferuglio, una signora che ti deve dire che quello è, io scrivo e porto libri. Ma una cosa divertente che mi è successa è che avevo portato questi libri in una libreria che non conosco personalmente, ma che è la libreria dove si servono delle mie amiche care, quindi appena li ho portati, dopo 5 minuti mi ha chiamato questa mia amica, una cosa tipo Alanna Magnani, quasi rincorrendomi, no, comprati sei, così rincorrendomi per le strade, dicendo sei, così ti regalo tutto, insomma, aspetta un attimo, almeno una copia te la voglio regalare, no! Poi ha preso un taxi e se n'è andata via così, proprio delle scene, poi dice, no, ma che te le sei inventate le scuole in fila? No, sono tutte vere, se li regalo a tutti! E io ho cercato di fermare il tassista lì a Piazza San Cosimato a Roma e il tassista mi ha detto no, non posso, me l'ha già detto la cliente qui, mi ha detto che non posso parlarle. Ho detto no, dobbiamo andare via, siamo di corsa. Io, ma no, ti prego, fammi. No, dobbiamo andare, ha tirato sul finestrino e se ne sono andati così. Questa è una cosa che mi ha fatto molto ridere, che mi rincorreva dicendo che era comparita e poi scappava via. Insomma, quindi questo mi capita, lo porto in giro, lo leggo in giro. Beh, tutto questo, visto che veniamo anche da un periodo pesante di chiusura anche per il lavoro teatrale, come sta proseguendo la tua attività di attrice? Di attrice. Non male, nel senso, in questo ultimo periodo sto lavorando, che sia una parola, insomma, dirla sì. Da soli fa impressione. Sì, adesso sarò a fine mese al Teatro India per questa rassegna di fantascienza che si chiama IF, Invasioni dal Futuro, per la regia di Lisa Perlazzo Natoli. Poi sono sempre in giro con il mio gruppo meraviglioso Le Romane, con Raffaella Visiti, che è la cantante, è uno spettacolo su Roma, testi e canzoni di Roma, siamo quattro donne e meniamo i maschi. No. È una cantante, un'attrice, una fisarmonicista e una chitarrista, e portiamo in giro questo spettacolo da qualche anno e quindi queste cose e poi altri progetti, poi c'è sempre lei che comunque mi impegna nella scoria e insomma speriamo che si apra sempre di più, non soltanto per me che in questo momento mi sento più fortunata, ma per tutti noi, insomma, credo, no? È necessario che si trovi di nuovo a stare tutti insieme, a non aver paura e di fare uno spettacolo, di dire qualcosa. Poi dovete aver paura di me perché sto un po' occhiando un sacco le parole in libertà stasera, però in uno spettacolo reale, su un palcoscenico, probabilmente con un copione sono più brava. Si deve aprire, sì, tu lo sai bene. Sì. Stavo infatti ragionando anche sul fatto, sai che seguo anche il cinema, sì, e il teatro secondo me ha sofferto magari più all'inizio, ma ha più capacità di ripresa. Vedo che il cinema sta avendo molte difficoltà, le sale per esempio a Roma hanno riaperto alla fine le sale d'autore, sì, e però la gente non ci va. Perché ha paura. Il teatro invece lo puoi fare comunque ovunque, è diverso. Diciamo che si girano tanti film, quello non hanno mai smesso di girare film, però probabilmente hanno smesso di guardarli perché sì, hanno paura di andare al cinema, infatti poi le sale cinematografiche all'aperto hanno fatto il pienone invece perché sì, perché è all'aperto, è vera questa cosa. Il cinema però ha lavorato molto di più, il teatro è stato ovviamente penalizzato durante la pandemia mentre il cinema lavorava parecchio, sì, però poi succede che adesso andiamo tutti di nuovo a teatro e meno al sì, cinema. Se dovessi fare una sintesi con una frase romana dalla scuola infinita sarebbe quando a tordi e quando a grilli, insomma. Però anche lì speriamo che si rimetta tutto in pari, perché comunque il cinema è sempre una cosa bellissima, c'è bisogno. E tra le vertenze, le lotte riguardanti il lavoro durante il periodo del lockdown e anche dopo le prime riaperture, tra le lotte principali, le mobilitazioni ci sono state proprio quelle dei lavoratori e lavoratrici dello spettacolo, perché è una situazione che comunque si trascina da anni, dalla stagione dei teatri e dei cinema che venivano occupati. L'esempio più grosso a Roma è stato il Teatro Valle occupato, però insomma è già passato un decennio e quelle rivendicazioni ancora sono in ballo. È una situazione che non sembra avere sbocchi. No, non sembra avere sbocchi, però probabilmente anche questa orribile pandemia ha portato anche a un movimento più forte, perché comunque siamo stati come categoria, per carità, veramente penalizzati, veramente distrutti, e quindi sì, si sono mossi in modo più forte, forse un po' più uniti, perché comunque è vero che ci si spende per i diritti, però a volte si sta anche un po' per conto proprio, comunque, soprattutto per quanto riguarda la categoria degli attori. Gli attori a volte pensano per se stessi, d'altronde sono attori e quindi siamo attori, però non è giusto, ecco. Dovremmo veramente, come un solo uomo, fare una lotta vera. Sono nate delle associazioni durante la pandemia, anche belle e importanti, che lavorano, staremo a vedere cosa succederà. Però fino adesso è un percorso, è un cammino, è una ricerca che corre, ma non è ancora un risultato che poi si può generalizzare, insomma. Hai pensato a forme più articolate al di là delle letture? Ti ha fatto venire in mente altri modi di rappresentare queste storie? Ma sì, me ne ha fatte venire tante, però al momento la forma più leggera è proprio il libro portato così. Sicuramente c'è bisogno di un cappello, di un'apertura, però veramente per me è necessario spogliarsi un pochino per alleggerire. Quando ho fatto quello spettacolo, ho scritto con Filippo lo spettacolo Voda Carcobain, sì, che è un monologo con una piccola scenografia, comunque era facile da portare in giro, era divertente, era un'ora, però anche lì comunque alla fine è diventato tutto più complicato perché gli attori devono viaggiare anche qua in modo molto molto molto leggero, quindi io credo che questo libro, se ha una forza e se ha una continuità, se l'avrà, sarà perché lo porterò in giro fisicamente da sola. Poi è ovvio, ci sono anche dei progetti che hanno a che vedere probabilmente con dei podcast, però in questa formula sì, fisicamente ci sarò io o, non lo so, magari tu, se vorrai farlo, o chi vorrà farlo, insomma portarlo in giro con una borsetta, un bicchiere d'acqua, è semplice. Mi hai detto che ti hanno contattato, hanno cominciato a raccontarti storie, sì, dopo l'uscita del libro. Sì. Che riscontri hai avuto? Che suggestioni magari ti sono venute dal sentire chi l'ha letto e magari ha avuto delle impressioni che ti hanno stupito? Beh, tante. Sono molto contenta, sono stupita per prima io, perché molte persone hanno reagito proprio con entusiasmo, al di là del farsi quattro risate con un libro, ma proprio hanno posto attenzione a questa cosa, perché sapendo che sono storie vere hanno cominciato a dire vabbè, può vedere se magari becco la storia qualcuno che... E in effetti è successo, quindi amici che hanno scritto, persone che mi hanno telefonato, persone che mi hanno ringraziato perché avevano un momento, ecco, questo è stato molto confortante, un momento difficile magari di stanchezza emotiva, di tristezza, di depressione, che magari hanno trovato questo libro molto molto divertente, e quindi sì, è stato un po' come coccolarli, come fargli fare due risate. Secondo me è la formula più bella. Io così vivo, insomma, cerco sempre dell'ironia nelle cose, anche quando non c'è niente da ridere, io ci provo sempre, e per questo probabilmente è nata questa roba. Può essere una sana reazione alla crisi pandemica, nel senso, per te ha funzionato? Per me ha funzionato, poi è uscito proprio sotto la pandemia, quindi ha funzionato. Ha funzionato soprattutto per molte persone che mi hanno detto grazie, perché mi sono divertito molto, mi sono divertita, mi è piaciuto, mi ha tirato su. E ne hanno comprato copie, le hanno regalate, lo regalo a una mia amica perché questa sta in un momento difficile della vita sua, l'ha lasciata, l'ha depressa, e quindi le regalo questa cosa e fa quattro risate. E in effetti questa, la semplicità di questo libro, che non vuole essere nient'altro che un piccolo libro di storie vere che succedono a tutti, magari sono più in romano ma si possono leggere in qualunque lingua, e sono storie che ci capitano. Voi non è che non vi è capitato a voi, voglio dire, su un autobus in giro, dal salumiere, dalla posta, dall'ospedale oftalmico, qua ce ne stanno di tutti i colori, ecco. Però insomma sì, è stato preso bene, diciamola così. Tu pure c'hai delle copie nella tua libreria, yes, meravigliosa. Certo. Una curiosità, i giovanissimi? Pure i giovanissimi. Io ho due nipoti, mi hanno detto che gli è piaciuto. Hanno detto un paio di scialla e che si sono divertiti parecchio. I bambini hanno molto riso. Una volta mi trovavo nelle Marche, mi hanno costretto a leggerlo in una tavolata di amici, di parenti, e i bambini si sono molto divertiti, ridevano. Anche questo vuol dire tanto, eh? Sì, vuol dire tanto. Cioè, marchigiani che leggevano questa cosa, poi magari uno mi ha detto, vuol dire questo? Però insomma si sono molto divertiti. Alcuni hanno provato a mettere in scena degli sketch. E quindi sì, per me è un successone, sono contenta, soprattutto perché poi comunque è nata una cosa, e in momenti così è molto interessante, cioè è un dono. Leggiamo ancora. Salsamenteria di Grido, cassiera garbata. Buongiorno, ha la nostra tessera? Cliente pungente. No, cassiera garbata, non vuole farla, ci vogliono 5 minuti. Cliente pungente. Non ho 5 minuti, ne ho 2 e non li spreco a parlare di una tessera. Cassiera garbata, come vuole, mi scusi, lo dicevo per lei. Cliente pungente, per me. La ringrazio per il pensiero, non si incomodi. Cassiera garbata, stavo solo facendo il mio lavoro. Cliente pungente, bene, allora lo faccia, mi faccia pagare così posso andarmene. Signora in fila vestita come il dottor Zivago. Mi sa che il signore si è svegliato male. Cliente pungente, senza voltarsi. Cara signora, nessuno ha chiesto il suo parere. Signora in fila vestita come il dottor Zivago. E invece, caro signore che le rode tanto il culo, il mio parere è piuttosto rilevante, visto che ci sta tenendo in ostaggio da ormai più di 5 minuti. Faceva prima a fare la tessera a sto punto. Si sporgono entrambi dalla fila per guardarsi in faccia. Pausa. Cliente pungente. Ma sei tu, Cristi? Signora in fila vestita come il dottor Zivago. Oddio, Fabio, sei tu? Si abbracciano, si baciano, con la lingua. Lui chiude il portafogli e prende la sua spesa. Lei posa le cose, farfuglia un torno dopo e vanno via. Risatine, 26 o 27. Hai capito sti due? Un solo lontano... Mi fa duetti di Pinocchiona dell'altra volta che era speciale? Fate l'amore, non fate la guerra. Ce n'è una, aspetta. Autogrill Roma-Firenze, questo è fuori. Uomo alla cassa, buongiorno, un caffè. Barista, solo un caffè? Uomo alla cassa, sì grazie, quanto devo? Barista, un euro, ma se vuole con 50 centesimi in più prende un ovetto ripieno della Lindt. Uomo alla cassa, no grazie, solo un caffè. Barista, altrimenti con soli 70 centesimi può avere un cornetto al cioccolato. Uomo alla cassa, no grazie, davvero grazie. Barista, come vuole? Macchiato? Uomo alla cassa, no, un caffè è normale, grazie. Barista, zucchero bianco o di canna? Uomo alla cassa, niente zucchero, grazie. Barista, bicchiere d'acqua? Uomo alla cassa, quello sì, la ringrazio. Barista, se vuole con un euro in più può avere una spremuta d'arancia. Uomo alla cassa, vorrei andarmene, quando lo ritiene opportuno, solo con un caffè amaro in corpo. Grazie. Risate sonore di molti. il barista esce ed entra una giovane barista. Giovane barista. Chi c'era? Uomo alla cassa. Buongiorno, aspettavo un caffè. Giovane barista. Solo un caffè? Nel mio inizio, la fine. Tram numero 3 e periodico. Due vecchie, una al gusto Ireos, l'altra menta fredda, parlano vicine vicine. Ireos. No, a Natale quest'anno faccio tutti i pensierini, anche perché siamo tantissimi. Il 24 siamo 25 e il 25 siamo 27. Menta fredda. Quando? Ireos. Il 24 siamo 25 e il 25 siamo 27. Menta fredda. Ah, quindi il 26 niente. Ireos. Il 26 non lo so, ancora non abbiamo deciso. Menta fredda. Tu hai detto 24, 25 e 27. Ireos, mi riferivo al numero delle persone a tavola. Dicevo che il 24 saremo 25, il 25 saremo 27. Menta fredda. Ho capito, ho capito. Quindi Santo Stefano non lo festeggiate voi. Ireos, aridaie, sì che lo festeggiamo. Parlavo delle persone a tavola del 24 e del 25. Menta fredda. Ah, no. Invece noi è il 27 che non festeggiamo. Al massimo cala mia sorella. 27 il Pitale, come numero voi potete giocare. Che ne leggo un'altra. Testaccio. Nipote. Nonno. Nonno. Sì, a nonno. Nipote. Ora che sto imparando a leggere e scrivere, come ti devo chiamare? Nonno o a nonno? Nonno. Che domande, mi devi chiamare nonno a nonno? Anonimo romano. È molto romana. È romano, questa, sì, sì. Porta Portese e due, che perché ce ne sono varie. Donna di Roma Nord. Senta, ha delle pecore più espressive di queste, e sa, per il presepe. Uomo della bancarella. Vada in Cornovaglia, signor, e trova tutte lì. Basta, tengo un treno e dai, poi vi lascio. Chiudiamo col treno. Treno della stanchezza. Un uomo sta facendo una videochiamata con una donna che chiama per tutta la durata della conversazione stronzetta. Un uomo. Allora stronzè, che mi dici? Stronzetta. Aspetta che esco sul balcone e mi fumo una sigaretta in pace mentre parliamo. Si sente dal telefono il verso potentissimo di un gatto. Una cosa così era. Un uomo. Come sta tua sorella? Stronzetta. Insomma, ha la febbre e poi si lamenta sempre. Un uomo. Poverina, mi dispiace, ma tu la stai aiutando da sola o ci sono anche i figli? Stronzetta. Sì, capirai i figli. Quelli escono sempre. Siamo io e sto cazzo de gatto che mi ha riempito dei graffi e de notte mi mozzica i piedi. Sto schifoso. Un uomo. Esagerata. Comunque alcuni gatti lo fanno, dai, tu ignoralo, poi si calmerà. Ma il medico che dice? Stronzetta. Che dice? Dice le stronzate che dicono i medici, da chipirina, riposo, mangiare sano. Un uomo. Vabbè, ma quanto ti fermi da lei? Stronzetta. E non lo so, almeno finché la febbre non scende, visto che per fortuna non è il Covid, posso farlo. Anche se sto gatto mi ha rotto il cazzo, mi fa paura. Un uomo, ridendo ancora. Vabbè, ma dai, stronze, ma è un gatto, mica un serial killer, ti devi rilassare. Nel frattempo, sotto, si percepisce chiaramente il flusso di coscienza del gatto. Poi, l'attacco. Sto maledetto! Di seguito, parolacce, suoni sinistri in Dolby Surround, il congedo con una bestemmia rivolta alla Madonna e un te devo richiamà e un sto a sanguinà. Un silenzio carico di incertezze. L'uomo si appisola e comincia a russare, mentre io penso al gatto mentre si finisce la sigaretta di stronzetta, la lonza dell'inferno di Dante. Non vi annoio più, me ne posso anche andare, no? Grazie Arianna, grazie a te, complimenti. È grazie, sempre un piacere. Piacere mio, grazie Federico, grazie Simonetta di avermi invitato, grazie di essere stati qua. La storia è infinita, è sempre infinita, grazie. Grazie, vi ho fatto un bacio.